Big World, la radio popolare che tratta i temi che interessano a tutti, stamattina porta l'attenzione su una conversazione che riguarderà il mondo della politica ed è collegata alla radice di mescolare acqua e vino. Grazie di essere qui a ascoltare e grazie se vorrete collaborare per lo sviluppo di quelle idee che andiamo presentando. Noi sappiamo che mescolare è così importante che talune eccellenze anche alimentari, pensate per esempio al whisky. Il whisky a chi piace è una buona bevanda. Per tutti quelli che hanno gusti raffinati, cercare un buon whisky significa cercare un insieme di whisky opportunamente mescolati che vengono da territori diversi, con trattamenti diversi e che hanno sul mercato dei costi molto elevati perché sono quanto di meglio si può ottenere nella produzione di quel liquore. Quindi mescolare dà come risultato, il più delle volte, delle situazioni vantaggiose, dei gusti gradevoli, dei percorsi interessanti che portano a scoprire novità. Però sappiamo anche che mescolare purtroppo non significa sempre migliorare. Se nel nostro simbolico bicchiere di acqua e vino mescolati qualcuno aggiungesse qualche sostanza non adeguata a quella bevanda, mescolare significherebbe inquinare. E noi si sa che la maggior parte delle volte in cui avviene inquinamento avviene qualcosa di nocivo per la salute, per il clima, per la persona umana in genere. Quindi bisogna stare attenti. Mescolare sì, inquinare no. Pensiamo un attimo a cos'è la vita civile. La vita civile è una mescolanza di persone, una mescolanza di pensieri, una mescolanza di attività. Se questa mescolanza non funziona bene perché ci sono inquinanti, significa che il cocktail risultante nella mescolanza è un cocktail inquinato. Allora, pensiamo un attimo ai regolatori della vita politica. Chi è che regola la vita politica di tutti i cittadini italiani, degli europei, del mondo intero? È il mondo della politica. Io non parlo di partiti perché i politici, indipendentemente che appartengano a un partito o a un altro, portano nella loro attività la loro persona, la loro esperienza, i loro pensieri e sono loro che fanno lievitare il benessere sociale oppure inquinano la società. Quindi io parlo di ogni politico in particolare, indipendentemente dall'appartenenza. Si diceva una volta che ciò che è storico è provato, quindi è sicuramente vantaggioso, no? Il pane si fa da sempre nello stesso modo, fatto storico, il pane viene buono, quindi è vantaggioso utilizzare il sistema antico per fare un buon pane. Beh, anche questo non è sempre vero, come non è sempre vero che un vino invecchiato è sempre un buon vino. Cioè, il tempo, le abitudini, la ripetizione dei fatti comporta, a seconda di come viene utilizzata, un miglioramento del prodotto oppure un deterioramento o un peggioramento. Nella politica cosa succede? parliamo dei nostri politici italiani. Ci sono tante persone che sono incallite, no? Come si dice, del callo del piede, che è venuto, che è lì da diverso tempo, che dà noia, che fa male, che non si sa come levarlo. Sono incalliti e anche se sono storici, non sono persone che hanno da portare qualcosa di interessante alla situazione sociale, politica, economica di oggi. Sono persone che rimangono in quel posto, come si dice, sono incollati alla loro poltrona, che cambia di colore, di bandiera, ma è sempre spalmata della stessa colla, cioè di lì non ci si stacca. Allora, queste persone nella società italiana sono molto dannose, perché in realtà non ascoltano, non inventano, non sperimentano cose nuove ed efficaci per la società di oggi, ma ripetono atteggiamenti vecchi che, se andavano bene 30 anni, 20 anni, 50 anni fa, oggi non sono più adeguati a risolvere i problemi sociali che si presentano ogni giorno a ognuno di noi. Tra loro ce ne sono anche che sono persone morte, che sono cristallizzate, standardizzate, che sono capaci solo di fare mediazioni tra persone, strutture, atteggiamenti, senza portare niente di nuovo. Queste persone sono malefiche per la nostra società. Ci sono anche politici che sono vivi e che sono realmente al servizio della nazione. Ognuno di noi sa in questo momento quali sono i politici che ritiene validi e quelli che ritiene meno validi. Comunque, ognuno di noi in testa ha l'idea precisa di quel politico o di quell'altro e della sua utilità nel quadro sociale in cui viviamo. Allora, mentre è importante rigettare, mettere ai margini, limitare quei politici che noi diciamo sono morti, è indispensabile invece sostenere, appoggiare, confrontarsi con quei politici che oggi sono vivi. Ricordiamoci però che oltre ai politici c'è la politica, che in Italia ha preso un indirizzo pessimo, nel senso che non è più capace di fare scegliere ai cittadini quali devono essere i loro rappresentanti, ma impone i suoi punti di vista, quindi anche i buoni politici e anche quelli morti, incollati alla poltrona, impone ai cittadini italiani tutte queste persone che non fanno bene. Allora, credo che i politici, quelli vivi, dovrebbero capire e avere il coraggio di fare passi avanti per essere meno partito e più rappresentativi, perché a questo è quello che a noi interessa, che i parlamentari, i politici in genere, anche l'assessore del nostro comune, il consigliere del nostro comune, che sono rappresentanti, rappresentino quello che noi desideriamo per questa evoluzione di vita che facciamo qui mentre siamo sulla terra. Allora, se tu che ascolti sei sensibile a questo problema, mettiti in contatto con Radio Big World, ne possiamo parlare e possiamo trovare delle idee nuove, delle strade nuove, perché la società ha bisogno di gente viva e disinteressata. Ciao ciao.